Effetto Mondo. We know the disease, we social distance, we do all of the things that you have to do. If you get close, wear a mask. Always controversial, it's not controversial to me. Giulia Crivelli, buongiorno. Stavolta non era Alec Baldwin, ma era proprio Trump, vero? No, era proprio Trump, uno degli ultimissimi. In realtà ieri ne ha fatti più di uno di comizi. Comunque questo era quello in Florida. E ha detto: noi ormai sappiamo cosa fare, conosciamo questa malattia, pratichiamo il social distancing, non è mai stato in dubbio la necessità di mettere la mascherina. Capite che cose di questo genere dette ieri hanno fatto molto effetto e le hanno trasmesse un po' tutte le televisioni, perché hanno fatto effetto perché è un cambio di rotta, no? Perché direi lui anche ad ora... perché poi quando ci sono le inquadrature di questi rally, li chiamano gli americani, dietro a Trump in generale si vede qualche persona con la mascherina, ma appena le telecamere inquadrano tutte le altre persone, e sono migliaia tutte le volte, nella maggior parte dei casi non hanno la mascherina. Lui ha tentato di dire: ma siamo all'aperto, ma sappiamo che allora se si è all'aperto senza mascherina, maggior ragione bisognerebbe fare quel social distancing, che però in questi rally non c'è. La differenza che hanno fatto un po' tutti e che fanno oggi sui giornali è tra questi ultimi comizi di Trump e quelli di Biden, che invece continua a tenerli in modalità drive-in, cioè lui sale sul palco, ma lo stesso fa Obama, lo stesso fa Kamala Harris, e le persone che assistono sono nelle loro macchine, quindi inevitabilmente distanziate. Sarebbe interessante capire il pubblico, perché Trump vuole mandare questo messaggio, lo sappiamo, al di là di questa ultima inversione di rotta, no? Sì. Però è un paese così colpito, no? Sì, perché ieri sono arrivati dati economici molto buoni sul PIL del terzo trimestre, la crescita più alta di sempre in un singolo trimestre, e però c'è stato un nuovo record di contagiati. Sì. Tra l'altro il Washington Post riprende un'analisi fatta dalla CNN che ha preso in esame i contagi nei luoghi, nelle counties, dove Trump ha tenuto questi comizi all'aperto, e nell'82% dei casi c'è stato un incremento a distanza di 2 settimane. Quindi tutti quegli eventi sono quelli che definiamo dei super spreader, dei focolai. Perciò purtroppo tra 2 o 3 settimane probabilmente si vedranno gli effetti di questi ultimi comizi, che tra l'altro, mentre ci si avvicina martedì, diventano sempre più partecipati, più numerosi, le persone urlano, e sappiamo che quando si urla si emettono più di quelle piccole, quell'aerosol che può contenere il virus, se l'abbiamo dentro di noi, quindi certo, è inquietante. È coerente, però è inquietante, ma è coerente con una cosa, però, che insomma, l'America non ha chiuso sostanzialmente nessun tipo di attività, no? Per cui insomma, certo, è uno dei tanti, credo, a questo punto focolai possibili. Solo che, se vuoi, sentiamo la voce di Anderson Cooper, che commenta queste parole di Trump in Florida con un certo sconcerto. Sentiamolo. This guy has no shame. He's telling a crowd of largely unmasked people who, as you see, are standing shoulder to shoulder, shoulder often rubbing against shoulder. Yeah, we social distance, he says. This guy è Trump, naturalmente. Chi è che no parla? Shame. Ci ricordi? Questo è Anderson parlando? Cooper, sì? Che è uno dei più famosi anchorman della CNN. CNN. E dice: questo signore non ha vergogna, perché sta dicendo di mettere la mascherina e di praticare il social distancing a una folla, un crowd di persone che sono shoulder to shoulder, spalla contro spalla, anzi a volte sono talmente vicini che le loro spalle si toccano, e sono per la maggior parte senza mascherina. È purtroppo una delle tante contraddizioni di Trump, che piaccia o non piaccia, si sia suoi fan o no, si attribuisca a lui o no il successo dell'economia, purtroppo queste contraddizioni esistono e sono palesi, per esempio in questa occasione di solo poche ore fa in Florida. Allora, se vogliamo andare già in Europa, in Gran Bretagna si torna a parlare del Partito Laburista, ma sì, non per motivi, diciamo, positivi. E torna questa parola shame, perché l'Independent, in realtà la foto di Jeremy Corbyn, ex leader dei Labour, che dopo la pesantissima sconfitta nelle elezioni politiche di dicembre, dove trionfò Boris Johnson, si dimise, e ora il capo del partito è Keir Starmer. Ieri, la foto è uguale su tutte le prime pagine dei giornali: Jeremy Corbyn con la sua mascherina chirurgica azzurra che esce dalla sua casa nel nord di Londra. Ieri è stato sospeso dal partito perché è stato pubblicato il risultato di questa inchiesta sull'antisemitismo all'interno del partito Labour, accuse che erano già state fatte pesantemente negli anni scorsi, e questa decisione effettivamente shock di sospenderlo dal partito, perché è uno di quelli che viene accusato di aver detto cose chiaramente antisemite, di aver discriminato persone di fede ebraica e di aver in più occasioni accusato Israele. Questo purtroppo è un vizio di certa sinistra europea, dichiararsi a favore della causa palestinese, ma con una venatura di antisemitismo riferito allo Stato di Israele, che non è esattamente, non bisogna automaticamente identificare le persone di fede ebraica con lo Stato di Israele. Quindi questo, ripeto, è un vizio della sinistra, e quello che sta succedendo nel Regno Unito viene chiamato il Labour's Day of Shame, il giorno della vergogna del Labour. Giornali tedeschi? Giornali tedeschi, se vuoi sentiamo anche la voce di Angela Merkel, perché sì, naturalmente è inutile dirlo, potete immaginarlo, tutti i giornali, tutti i siti hanno in prima pagina le foto di Nizza e naturalmente raccontano di questo atto di terrorismo terrificante. Però poi, per esempio, in Germania si parla molto dell'intervento che ieri Angela Merkel ha fatto al Parlamento, e sentiamo un piccolo estratto del suo intervento. Von unserem Bezug zu Fakten und Informationen hängt nicht nur die demokratische Debatte ab. Davon hängen Menschenleben ab. Dice, dal modo in cui noi consideriamo i dati scientifici non dipende soltanto il dibattito democratico, cioè civile, ma dipendono le vite delle persone. Questo intervento, tra l'altro lei ha proprio usato parole molto chiare, Lügen, che vuol dire proprio bugie, riferendosi alle fake news che continuano a essere diffuse. Ricordiamoci che in Europa è il paese dove ci sono più siti che si dichiarano vicini a QAnon, è la Germania. In Germania ci sono, lo ricorderete all'inizio della pandemia, gruppi di estrema destra che scendevano in piazza dicendo che il virus era un complotto. Quindi Angela Merkel ha veramente sottolineato: smettiamola con queste fake news, perché a questo punto non è solo questione di avere un dibattito civile tra di noi e anche qui in Parlamento, ma di salvare le vite delle persone. A proposito di Nizza, Giulia, che spazio hanno questi attentati sui giornali europei? E c'è qualche riferimento anche al fatto di questo attentatore che era sbarcato a Lampedusa e uscito dai centri di accoglienza italiani? No, devo dirti, sono due le cose che mi hanno colpito nei titoli e anche nei commenti, che non c'è polemica per come è arrivato questo ragazzo in Francia, anche perché naturalmente se è riuscito ad arrivare in Francia c'è anche un problema con le frontiere francesi, non è solo il fatto che fosse scappato dalle misure che invece si cercava di applicare qui in Italia. Quindi è un po' queste frontiere sono aperte in entrambi i sensi, e non c'è nemmeno, che invece purtroppo ho visto qui, soprattutto su internet, non c'è nemmeno la colpevolizzazione di Charlie Hebdo per quella ennesima, sgradevole, di cattivo gusto, possiamo dire quello che vogliamo, quella vignetta, certo. Perché al cuore di tutto questo c'è la posizione della Francia. Le Figaro sottolinea molto bene: dobbiamo guardare il nemico in faccia, perché noi dobbiamo continuare a credere che il valore della libertà d'espressione, al limite anche la libertà di blasfemia, come disse Macron un paio di settimane fa, è una cosa che distingue la Francia e deve continuare a distinguerci. Il filosofo Finkielkraut, intervistato oggi dalle Figaro, dice proprio questo: il nemico non ci perdona di essere quello che siamo. Ancora un titolo, 20 secondi. Beh, se vuoi, in Spagna, dove naturalmente c'è, la Spagna è un paese molto cattolico, quindi anche lì si celebra il Ponte di Ogni Santi, che è tradizionalmente un ponte un po' pre-natalizio. Le notizie sui lockdown sono che innanzitutto lo stato di emergenza viene prorogato fino al 9 di maggio, che ci potranno essere alcune eccezioni per gli spostamenti di questo Ponte di Ogni Santi, ma sempre cercando di limitare le riunioni ai gruppi familiari, cioè non fare neanche celebrazioni in chiesa, quindi naturalmente. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi con Giorgio De Luca e Alessandro Schirano in assistenza in redazione, Valeria Bernardi in regia. Noi ci risentiremo naturalmente da partire dal lunedì prossimo, e tra poco per l'aggiornamento delle 14 da Alessio Maurizi. Buona giornata, ciao.